te ne posso più, cazzo mi date nel culo, avanti Antò. La foto, cosa me lo porto? Sbagliato a casa in modo che in parte che faccia casino cazzo in camera da letto. Lo sai che lui si sforza nel camera da letto, tutto il letto bagnato. Quindi quando sta piovendo io a casa non devo portarci con te. Vabbè, ognuno c'ha i suoi modi. Comunque, non ti ho pugnalato e ti ho fatto una domanda. Avanti tu. Io posso cagare tra la mazza. C'è più problemi hai visto? Vabbè, ognuno c'ha i suoi modi. Cara, va portato anche sta piovendo. Poi si asciuga. Cazzo non è che... Vabbè dai, non mi interessa, ho fatto solo una domanda. Avanti Antò, riprendi. E capa, il cane va portato sempre, se c'è l'impegno va portato. La ghidura è sacrosanta. Se ti hai pigliato l'impegno, se no. Se uno, cioè uno non lo tiene. Vabbè, ognuno ha i suoi orari, Vabbè, Antonello c'ha i suoi orari, io c'ho i miei. Vabbè, dai che mi spoglio, riprendi Lu. Vabbè, te c'è la traversa, poi te è piccolino per prendere acqua ancora. C'ha la porto, C'ha triciureggia perché lì cammina come se niente fosse, si va da beffa. Comunque sia, c'ho la traversina, fa lì poi la cambio, non è un problema. Poi se caga in terra, vaffanculo, già tu caga poco. Lo scotter, che poi pulisco un po'. Sato è quella con la parecchina, antibatterico, già andava, dai. Quando ci sono belle giornate la porto. Io non ti voglio un microfono, che sono io zinco di MP5. E vabbè, ma infatti no, cioè ognuno c'ha i suoi modi di adoperare il cane. Io lo porto 3 volte al giorno, la mattina presto, stamattina stava piovendo, e quando sono uscito dopo pranzo stava piovendo e poi lo porto a quest'ora. 8:30, 8:15, dipende. Va bene, avanti, riprendi. Antonio, riprendi. Ah, popo, non è che tu che ti dice il microfono, no? Chi ne scrive sempre? Ah, oh, che certo, ma... La mattina lo porto, poi lo porto anche verso le 4, il discorso è questo. E io appena mi sveglio, verso le 7:30, le 8, e siccome la notte non può uscire, quindi chiudo la porta, sono in massata, non sono nell'appartamento, devi capire che c'è freddo, quindi chiudo tutto. Ogni mattina io alle 8:30 vado, accendo lo scaldabagno, aspetto 10 minuti, quello che è, e lavo tutto quanto in terra. Salone, cucina, quello che è, camera da letto, eccetera, eccetera. Dopodiché porto il cane a fare la pipì, non è che posso fare cazzo, ha fatto la collezione di Simona. Però non posso fare 50 cose da sola, hai capito? Una sera lo riporto di nuovo, purtroppo la notte lui non esce, se piove il cane non esce, anche se lascio la porta aperta della massata, lui non esce, il cane, fa dentro, se sta piovendo, il discorso è quello lì, teme la pioggia, cosa devo fare, cazzo, ce lo metto fuori e lo lascio lì 2 ore e mezza, no, penso lì no. Quindi a un certo punto, quando fa le cose, i bisogni di fare la notte, vado, pulisco, grazie a Dio casa mia è pulita, è profumata pure, spendo roba di 50 euro, ogni giorno di fabuloso, ogni mese di fabuloso per esattezza. Figurati tu, d'accordo, da questa polla prendo il fabuloso, prendo l'acqua, ci metto il fabuloso dentro e lavo tutta la casa. Grazie a Dio è profumata, non c'è odore di urina né di niente, grazie a Dio. Non è come per dire dei gatti, se ti metti i gatti è un casino, perché esci di testa. Non ti abbiamo detto che c'è la casa di puzza di pipì, attenzione. Ti ha fatto solo una domanda a Claudio, tu quando lo porti, basta, se mi hai dimenticato una tragedia. Io ho detto la mia è piccolina, ha 4 mesi, purtroppo è un cane che si trema e quando mi ha freddo poi sta un bel po' a riprendersi. Adesso vedi, lo può fare in cucina, con quella stufetta che c'ha mamma che è piccola, però se la metti al massimo già scalda, però è al minimo, e vabbè, poi si stava tremando, adesso è qua di nuovo, la sua cuccetta, ci sta sgranocchiando il coso. adesso sta bene. Se ne fa la pipì, la fa sulla traversina e poi gliela cambio. E ti ho capito, il discorso è questo. Siccome sono io, solamente io che esco, non è Simona. Simona non esce di casa, non ce la fa neanche a fare le scale, quindi lo faccio tutto io, il discorso è quello lì. Io cosa ne so? Se vado a farmi la spesa, lui mi pisce in terra, il discorso è quello lì, hai capito? Tu, grazie a Dio, ti fai tutto, sai cosa fare e quindi non c'è nessun problema. E siccome c'ho Simona in queste condizioni io, che non riesce a gambulare nelle gambe, quindi c'ho quel problema lì. Quando esco, in pratica, devo stare attento, non sai che mi telefona lei, dice guarda sono caduto, Antone, vieni a prendermi, eccetera, eccetera. Capito? Io sto vivendo questo incubo, hai capito? Il discorso è quello lì. Perché non devo ambulare nelle gambe, il discorso è... basta, il discorso è quello lì. Quindi tal cane e Simona, ho questo problema qui. Quindi mi devo coordinare e basta. Cosa devo fare? Mi ammazzo di agire, cioè portare il cane e lasciare Simona in terra, cosa del genere. Devo entrare subito, il discorso è quello lì. Purtroppo è così, per il momento, fuga. Quando si sistemerà, si metterà a posto per la questione della deambulazione, che libererà il medico, eccetera, eccetera, dopo il Covid, allora le cose cambieranno. Non potevo rispondere, non posso portarlo morto come lo porti tu perché ho problemi con Simona. Non c'è bisogno di mandare a fanculo la gente, no? Non sto mandando a fanculo nessuno, il discorso è quello, ma siccome le cose non le sai né tu, e tantomeno gli altri, ti ho risposto su quello che mi hai detto, tutto lì. Non ti ho dato a fanculo, come stanno le cose purtroppo? C'è quel problema, cosa devo fare? Più anche c'è anche il mio fratello, tu lo sai, che tu, quindi devo scendere giù, a un certo punto abbandonare a lei, vuol dire mio fratello e cosa del genere, perché la bandante è solamente, esclusivamente, solo per i bambini, non per mio fratello, quindi sono in mezzo alla merda io, mi devo dividere in tre persone. Va bene, comunque. Bene così Antone, ho capito, non c'è problema. Avanti Anto. Antone, ma la balanza ci avete adesso? Sì, ma non è... vabbè, per Giampiero non lo è in pratica, hai capito? Adesso sto pigliando da gennaio, prendo una persona per la mattina, in modo che se lo porti a passeggio, lo tolga dal letto, se lo porti a passeggio, al bar, quello che è, a fare la passeggiata, in modo che lo tolga dal letto e io sono tranquillo. Capito? Li cambi da... non è che ci vuole andare io a fare... a cambiare il panno eccetera eccetera, capito? Io lo cambio una persona. Siccome Giovanna ha tre figli e più c'è Giampiero, qui devo, siamo in due. E capa, voi prendetene una che va di un po' a Giampiero, poi vada un po' a te, prendine una così che fai bene. Quella ce l'avevo al centro storico, qual è il problema? La brasiliana. Ah, vedi come ti solleva tutto. Caspita. A me non fa un servizio del comando. Già che avevo avuto la brasiliana, stai tranquillo, non sarebbe stato niente a letto, te lo dico io. Sarebbe stato bello in carrozzina, in giro, insieme a lei. Avrei fatto la fine di Maradona. Se ne vuoi sposato insieme a quella, capito? E già lo so già. Vabbè, visto che sono un po' gazzo, ecco, dai. Te ne prendi una che magari assiste e poi la notte vai tu e assisti a lei, capito? E fa un po' di cretino di compagnia, li fai. Oh dai, io mi allontano dalla radio, sentiamo dopo se ci siete che devo andare a preparare la cena, dai. Ciao Antonio, Antonello e Luca, dai, a frappeccia, ciao. Ciao, alle prossime. Ok, ci sentiamo alle prossime, avanti Luca. Che sta chiudendo? Oddio. Ciao Cla, alla prossima, là. E là sono qua io, là. C'è qualcuno, bene, se no guardo un po' di TV e ciccia, poi quando dormo. Stavo dando. Stavo parlando l'altro. tocchi è? Ho fatto io, ecco che però sta chiudendo, si sta spostando un pochettino, poi già rientra adesso, il discorso è diverso. Siamo qua, là. Cioè vuole rientrare già a brecca, o entra, o come vuole, non c'è problema, siamo qua. Leo sono in noi. Cazzo, perché non te la prendi pure tu un assistente in casa lì a darti una mano? Io? E tu fai la richiesta, adesso la danno via. Sì, appena fa la pista al simula, faccio vedere subito una polacca. Questa poco ma sicuro. Fai così, a me ti pulisce la casa, ti fa un pochettino di tutto, dai. E mi dà anche la canna. Vabbè, gli si appasse. Ma prima della polacca ha preso la brasiliana, te lo dico io. Ci metto la brasiliana in casa che è meglio. Io sono più tranquillo, la polacca lo sa che mi dà i soldi, quindi meglio la brasiliana, a me la brasiliana non ci passa nemmeno i soldi. Questo è poco ma sicuro. E più tranquilla. Ma tu mi invia direttamente a Gaza. No, tranquillo, le conosco le brasiliane, non è come pensi tu, le polacche sì, ma le brasiliane no, e tu lo sai che le polacche, ce ne sono parecchie a Sassari che fanno le mandanti, e vabbè, a parte una si è sposata con uno che ha una ristorante pizzeria e quindi diventa padrona a un certo punto. Vabbè, dai, un rondone, beh, cosa vuoi fare? Vabbè, se sono conosciuto lì, non è che sono conosciuto, non va bene, io lo sai anche tu. La polacca non è che le conosci così, le conosci nei night. Sì, ma t'andà in chiesa a Pittarello, Pittarosa, voglia polacca. Una volta c'era, quando andavo a prendere Giovanna, ti giuro, lì punti scendevo verso Ottava, c'era i marini, non sai quanto c'erano almeno una quindicina c'erano, tutti messi nel divano, io scendevo verso 12:30 mezzanotte, dovevo 5-6 cose, 6 spine insieme a Giovanna. E poi entrava a casa, non ho mai pagato nulla, la verità. Ci sono moglie di naso, per carità, va. Cose che furono, che sono, cose che furono. Allora, a tu. Ma c'è tutto quello che ho fatto in quel periodo lì, avevo visto pochi di cibilli dentro, cosa è era? Con fattura. Con fattura, senza fattura era, cosa è fattura? No, ho fattura. Ah, sì, c'era il pienone, c'era i cibi, la verità, ti giuro. Quindi si divertivano più che altro, vabbè, ma meglio così. Mi divertivo anch'io, figurati. Io lì non ho mai pagato niente di birra, niente, solo niente. Avevo 7 spine, 10 spine, quello che era. Claudio non ha fatto mai pagare niente, non che lo sapevano, Claudio il gambusiere. Poi vabbè, dopo avevo stato il proprietario e sono andato a casa sua e c'era una roba di 15 polacche, tutte nude. Figura di tu. A 10 euro l'una? Ma cosa dici? L'ho visto qualcosa io, sono andato a fare di antenna del televisore insieme a Manuele. Ah! Bianco, per me un attimo che mi hanno chiamato nell'altro nel canale 15. Ma telefono canale 15 o cosa qua? Cava! Ma quando sale il segnale, Pompo? Guarda un po'. Ma vuol dire che sei qua, vabbè. Ma non ti posso dire. Ma arrivò bene il radio? Squillante? Sì, abbastanza, apposta. Ok, dai. Abbiamo messo la batteria nuova anche qua. Ehi. Che aso? 8 e la pera. Oh, yeah. Ja, va bene, io sono tutta una palla tipo, figurati, tutti. Trattati di... come Squattrovila e cosa voglia, sono tutti qua, sono. Quasi un coso... sono Mimo, sei ciapati, che c'è qua a casa. Io ne ho quattro malacchie, ne ho tre qua e uno giù. Ma no, io ce l'ho tutti qua perché Giovanna con i bambini non è che possa lasciare, capito? Così. Quindi a un certo punto me ne sono portati su, sia V sia U, che gli ho regalato io, quindi a un certo punto qui c'è il Comens 4000 con il fratello del 2009 che è nato a Torino. Quindi a un certo punto già ne aveva parlati, non è manca maturato, l'unico che manca sai cos'è? È stato un ecco, vabbè, non me ne fate nulla, a un certo punto già mi capita, appena mi capita a un ruolo me lo prendo, perché ne ho visto un paio, ne ho visto, e adesso devo concordare 100-120 euro. E me le danno uno o l'altro, se vediamo un pochettino. Saturno è con Barraso, è bello, vabbè, ma qua non ce lo metterei io. Ah, vabbè, io lo sai che io l'ho venduto 150 euro, è stato un becco, quello di Antonio, te lo ricordi, quindi non ci ho guadagnato niente. Tutti quanti, cazzo, oh, sei coglione, cazzo, che il bello da 200 euro. Ah, detto, la verità è, ho speso, ho detto, 1,50 euro in trim, e ho detto, lo vado così. E l'ho messo a posto, la verità. Quindi ho fatto una bella figura. Io do a parati come si deve, non do a parati, cioè tipo fregatura, fanno cerchi, cazzo, 2,50, magari non funzionano, eccetera, eccetera, quindi non mi interessa. Se prendo un apparato, lo prendo per quello che è, se la riparare lo prendo per quello che è, me lo riparo io, dopodiché, e lo rivendo per quello che vale, 150 euro, non di più, non 250, 300, ne vedo anche da 500, ma lo siamo macchie se diventate, non esistono, quello non è più commercio, quello è fregatura e basta. Infatti, no, vabbè, ripeto, parliamo a ragione. È bellino, la verità è bellina, perché io l'ho usato e Antonio lo sa, quindi mi piace, la verità mi piace, solo che io ho detto, Simone, ho detto, guarda, e poi io ho detto, c'è un sacco di apparati, Simone, ho detto, tu vuoi vendere? Ho detto, sì, quando è arrivato, lo vendiamo, questo qua è l'apparato, questo è il microfono, lo vuoi girare su, lo vuoi? Che sì, l'apparato funziona bene, grazie a Dio non si è mai lamentato, è a posto. Io non ho fregature come l'hanno gli altri, che magari hanno problemi, eccetera, eccetera. No, io questo non vedo. Se devo un apparato, la valutazione sua è quella, 150 euro, non di più, non 250, che 300, che 500, eccetera, eccetera. A me, quei apparati, se ne avrei avuto uno, 500 euro, l'avrei fatto a pezzi. Prima comprato a Libito un FT250 per dire, uno e due. O se uno va a tappare un apparato decametrico, il discorso è quello. Ma di certo non avrei pagato una cosa del genere, meno di 150 euro, questo è proprio ma sicuro. Gli effetti, cioè gli effetti cosa. Fancula, ci ha mai capito. Vabbè, ognuno li vende come vuole, no? Poi se quello vende 200, quello vende 300, quello 400, purtroppo è così, come le radio grosse, no? Sì, ma c'è un sacco di gente che vuole vendere, cazzo, Saturn Echo, 250, che 500, per che cosa? Non servono a niente, capito? Sono baracchini, il discorso è quello. Bello, detto vedi, un FT250, bello, nuovo, un FT200, come l'ho visto l'altro giorno, 350, 300 euro, ci sono, le occasioni ci sono, la verità. ma non come prima, cazzo, che vedevi cazzo su internet, su Facebook. Sato un ecco, 500 euro. Cazzo, con 500 euro cazzo mi compro, cazzo. Un coso mi compro, una roba per cazzo di baracchini mi compro, cazzo. A me piace 4,40, anche 4,30 è bello, quello che si accade è sempre bene lo stesso. E poi ci sono varie radio, no? Ce ne sono tante. Posso, ma tu hai fatto male a venderti quella, cosa mi sembra 140, se non ricordo male. Quello che ti metto, no? Lì dove sei tu, quella roba non ne hai, non c'è il problema che c'ho io. Vabbè, lo so, ma purtroppo lo dovevo prendere perché mi servono soldi. Che vabbè, già ci... già lo so, vivo di quello, non ti preoccupare. Meno di 300 euro già lo so, fai caffè. La scopa è la persona giusta. Lo so. L'unica cosa che ti sto dicendo, quando va a parlare figlio, lascia prendere via Esu 757, perché quelli sono proprio da buttarci nella mondezza, perché ti, una volta che ti parte la pentola ti si brucia l'apparato e si è fottuto, il discorso è quello. Chiarete a me, perché ne ho avuto esperienza io. Marco mi ha detto per scherzo, cazzo, mai è successo, si trova un po' posso dire. Un bestemmiatore sembrava, cazzo, Marco, una volta mi ha prestato Stefano con il 757 GX. Ma l'avessi avuto, guarda, è durato un'ora e mezzo. Si è bruciato tutto. Io addirittura. E lo sto dicendo, ho fatto dire a Marco. Ragazzi, ma via, i finali percorsi. Eia. Se non fosse una ventola lì, si fa tutto, si brucia tutto. Ne ha avuto premi con la persona lì. Tutte e tre li ha bruciati, si sono bruciati. Quindi a un certo punto, andava per lì, gli ha ESO, ESO sì, cioè 757 GX, non lo prendere mai più. E tanto me l'ha anche dato gli ha ESO. Lascia perdere, meglio che loro. Ah, in me, se sono bravi di dubbio. Con noi, giusto giusto, ho fatto anche una figura di cazzo, ho fatto una figura di merda. Cioè Stefano mi ha prestato, dice prova un altro me. E Marco mi ha detto per scherzare, ma guarda che ti si brucia l'apparecchio, cazzo. E vai, che non è, la fanculo, ha detto Marco, non è possibile, cazzo. Mi, dopo neanche mezz'ora, è cominciato blu, si è sceso la portetta a zero, ciao buonanotte, la fanculo, l'apparato bruciato. Due, c'è Alexi e Esu, fa tutto, fa tutto proprio. Gesù, per carità. Vabbè, te l'hanno bestemmiato. Non c'è niente se è bestemmiato, ma questo è che quando la gente offende la roba, la offende difettosa, hai capito? Quando sente l'odore di umido, perché sente l'odore di umido, a un certo punto, sto intendendo, hai capito? Prima di usare la roba asciugata, pulito bene la ventola, la roba che ho utilizzato, cosa è quella? Purtroppo, detto Stefano dice, l'ha preso, dice, prova l'altra me, cazzo, l'ha attaccato, dopo un'ora c'è la verità, solo che reagire la cosa, a Marco. Sì, vabbè, vuol dire che doveva andare così, pum pum, cosa dovevi fare? Mica ci può fare niente. Non so, la porta c'è anche la cosa. Lì, vabbè, adesso non ce l'abbia più la verità perché ce l'ha buttato la mondezza, ma comunque c'è la... come diavolo si chiama? Fanculo, se mi ricordo il nome. Via Sosso. Adriano. Adriano Lando ce l'ha, sì. Ce l'ha lui, ne ha due di tua, ciao. Lei, 57 GX e anche l'altro normale, ciao. Tutti e due. Trattate in chibi. Ho capito. Vabbè, ma si può riparare. No, assolutamente no. Ti costa più di quello che costa. Cioè. Lascia perdere. Se devo piare dei pezzi, non lo so, te lo chiedo a Stefano, se devo piare, te lo ritiri, ci c'è la cola. Poi te lo ritiri, cosa vuoi che dica io? Ma mi sembra strano che, cioè, penso ci vuole, la scheda e cosa, mi sembra ci voleva 200 euro, una cosa del genere. La scheda di finale ci voleva, e anche le per finale addirittura. Sì, siamo di vostro, non li muto barragioni, no, a me piacciono più i veicolari. No, insomma, vabbè, era bello essere da prendere, il 757GX, riesce a fare il filtro, quello che era, però a un certo punto è durato poco, però che posso dire, sono tornato io, so. A un certo punto, quando Marco mi ha detto, dice, vedrà che ti do 4 ore 20 minuti, che ha detto, va a far culo Marco. Scatto, perché è durato così la vetta? Cioè, sarà lui che ha parlato di maggio. Vabbè, non ha fatto mica apposta Marco, scusa, a un certo punto. Ma, spero che quando scendo una sola a parati di 20 anni fa, quando ho sentito l'odore di umido, a un certo punto di muffa, cosa senti tu? Lo so, poi alla fine è un casino. Ho appunto per quello. Beh, bombolino, è entrato, sì. Cappa, un attimino stavo dando dei controlli a Massimiliano. Cappa, non c'è nessuno? Siamo noi due, aspetta che chiama cosa se c'era. Un amico mio, se è all'ospedale, col baracchino, almeno entra anche lui, un pochettino. Sì, quello che abbiamo sentito l'altro giorno. Esatto, sì. Cappa, provvedi. Se lui è all'ospedale fa la guardia, dovrebbe entrare almeno il 27, perché quella frequenza lì, a quanto sembra loro ci hanno portato di quelli di 888, 462 e 125 come frequenza, lì all'ospedale civile. Come gli 888, quelli li stavano utilizzando? Esatto, sì, c'hanno quella come frequenza. Cappa. Oh, strano. Hai trovato vicendo lui, me l'ha detto lui. Ma sono quelli che vendono normalmente, no? Quelli del 118 sono in pratica, che salgono nei reparti, capito? Usano quelli. Ah, ho capito, come quello che ho comprato io, dai. Esatto, sì, bravo, ci sei arrivato. Senza essere modificato. Giusto, aspetta che ma lui vediamo se il servizio lo faccio entrare. Se il servizio sarà bene, tu lo aspetta. Io non penso lo chiama. Aspetta che spengo un po' la stufa, che non vedi gas, mi ha un po'. Andiamo bene, andiamo, chi è te? Che tu faccia la tua bombola? Tu, ero un attimino giù, ero. Dimmi. Ho detto, la stufa a bombola c'hai. Diciamo che non è proprio la stufa. Ah, diciamo che? Non è proprio la stufa, lui. Cioè? Certo, c'è un po' di caldo adesso. Però io per scaldare questa casa, cioè questa casa anche qua su, basta che accendi il fornello grande della cucina e c'è caldo. Cazzo, la corrente a voi? Anche la corrente, a gas. Ah, consumo per i correnti. E cosa? E perché deve consumare la corrente? La cucina. Ma cosa corrente? Lo vorrei a gas. E lo consuma la bomba. Anche a nebago. Ah no. Ah, poi il capoce. Ma grazie, ci vedrai tu di bombole. E beh, ti pare che verrà già a pagamento. E pagherai di meno. Ma cosa cazzo? Allora sei cucinando, vabbè. Vabbè, per me solo. Cosa pago di meno? Non mi pago di bombola. Poi le busi a me mi spetta una rumese. Gratis? Sì. Poi le usi? E poi qualche cliente gli avanza. E allora te la porti a casa, hai capito? E le porto qua almeno, cioè, almeno la casa tiene. è nuda, casa, bisogna tenere la gatta. Scappa. No, ma qua non ce n'è bisogno di stufano, basta che accendi il fornello grande e scalda. Meglio così, tanto. Scappa, e dopo tu la prova, anzi no, qui sopra, poi scende giù, da su scende giù il calore. Ti faccio la prova, sali qua sopra, te la attendo 10 minuti. Dopo 10 minuti no, qui sopra non puoi bruciare. Picchia. E scaldami, perché va verso l'alto. Io c'ho, e la mia casa è un po' particolare. E io c'ho il letto sopra il soppalco. E giù c'è la cucina, cioè è fatto un po'. È un po' strano come se fatto il appartamento. Quindi io no, non occorre la stufa, basta che accendi un fornello e scalda subito. Ah, sali le scale per salire su, una scalaccia. Caffa. Ecco. Fate il break. Ciao Antonio, ciao Luca, una cortesia a Luca, ti capita spesso di sentire Antonio Grode? Sì, diciamo di sì, perché? No, perché mi voleva dare, dice che c'è una boomerang giù a casa di Platamona, da un'altra parte smontata, la voleva portare via da lì, me la voleva mollare, ma una boomerang, una ringo smontata. Niente, se hai la possibilità di sentirlo, magari se glielo ricordi, di questa cosa qua, se mi fai questa cortesia. Se no, mando un messaggio, dico di... Io lo dico, mi conosce anche di persona. No, in verticale no, però mi ha detto una cosa, adesso non so, ma probabile di sì, ma adesso poi, insomma, conosco un sacco di gente, quindi figurati, Comunque mi ha parlato che insomma doveva smollare questa antenna e me la voleva mollare. Al limite se ti va, prova a rinfrescargli la memoria, mandargli un messaggio, comunque, che voglio dire, la guardiamo, vediamo in che condizioni è, la proviamo, poi se ne vale la pena andare, se no ciccia. Ehi, già, va bene. Domani gli mando un messaggio, poi magari me la faccio portare a me, oppure ti metto in contatto con lui, vai e te la ritiri. Ehi, fai così, dai, magari gli rinfreschi la memoria, gli mandi un messaggio e niente, gli dici che gli diamo, cioè la guardo, se è fattibile la proviamo e se funziona bene la installiamo, dai. Ok, dai, sono entrato giusto solo per quello, vi ho sentito e adesso chiudo. E niente, dai, fammi sapere che cosa ti dice, o con il radio, oppure tramite WhatsApp, non so se sì, credo che forse abbiamo il contatto di WhatsApp. Comunque, va bene così, dai, grazie per adesso. Figurati già. Andare avanti a tu. Capa, se vuoi ti do una mano pure io, quella la conosco bene. No, già la conosco anche io, no, mi è capitata l'occasione stasera che me l'ha detto, che siccome se la trovo in mezzo ai piedi e se mi voleva sbalanzare mi ha detto che me la voleva mollare, infatti adesso ci ho pensato, mi sono dimenticato, poi vabbè non è più rientrato da sto pomeriggio, si è allontanato dalla radio, per cui vabbè dai, già... Rimaniamo d'accordo così, al limite mi fai sapere lui, ok? Grazie per adesso. Sì, figurati, ciao. Avanti. Sì, vabbè. No, qua, ti do un consiglio, prima di alzarla, tarala bene e via, e poi la alzi, poi lo sai cosa fai? Dopo che è tutta bella piazzata e cosa, che sei sicuro, stringi tutto bene e forte, e poi ripassi il grasso a tutte le parti, però non ti dà problemi. E poi ce la butti. Perché ce la devi buttare? Già lo sai, pure tu. Vai tranquillo, buon po'. Questa che io ho montato funziona con una meraviglia. Dico, devo dire la verità. Sarebbe bello una BMW, una BMW 27L, quello che è, cazzo, ma come mai non c'hai 50 euro, cazzo, per una Grand Prix, cazzo? Mi sembra strano, una boomerang. non ti capisco questa volta, guarda. Spendete, cazzate e pigliate il cesso quando una gatta è molto meglio. Una Grampei, una B27L, quello che è. Non lo so. A volte io non li capisco le persone, guarda, la verità. Voglio questa, ma la cosa la sa bene, vedo che funziona bene, non ho problemi. E cazzo, quando fa un po' di testa appena appena salgono, ma non ripeto nulla, se la cosa funziona bene, cosa sto dicendo? Va bene, sì, ho capito, quella nuova che sto facendo adesso si stacca con qualche pezzo di stacca, ma questa non è la nuova, questa è di 10 anni, la migliore della stazione. È molto 100.000 volte migliore, quindi questa va bene, non è una bucaria come stai dicendo tu. Te siamo in stampa che voleva farmi Antonio, nient'altro, niente di più e niente di meno. Poi una volta che ripiazzo la boomerang, problemi già non ce ne sono, già lo sai. Non ho capito niente, avete fatto in due. Ho detto che Antonio Grode si è proposto, siccome ha una Ringo smontata in una a casa al mare, non mi ricordo dove, se ne voleva sbarazzare, mi ha chiesto se mi interessava, io gli ho detto proviamola, ho avuto esperienza già con una, insomma, per via dell'umidità e dell'acqua saliva in stazionaria. Io ho la mia boomerang che funziona bene, però in questo momento l'ho smontata perché la sto riparando. Adesso, se Antonio me la molla, proviamo questa lingua ciccia. Comunque io, a livello di radio, sono a posto, capito? Era tutto qua, era giusto per essere precisi. Ecco, adesso secondo te, la giovacci, l'antenna è piazzata, lì è andata l'ora, cosa fa sì, secondo te, quando la scendi, chi la risale, quindi tu devi andare ad attaccarla, secondo me, che non so se dovrà attaccarla quando è solo lui tu, il discorso è quello lì, secondo me non ti conviene, perché faresti una cosa fatta, lasciala lì, tanto non ti sei dato già, perché se trova l'ossido. La tari bene, li fai segni bene, li rispetti tutto, e ha voglia che va bene. Cioè non è che non fa schifo, se te la sta bene e se è fatta tutti gli accorgimenti che devono essere fatti, i problemi non te ne dà. Vedi questa va bene. Aspetta, a tu. Allora, c'è stata la piattavola, sfigurati tu. Ecco, adesso tu pensa, la fa sedere. A un certo punto fa la stessa cosa che fa sugli altri in quelle lingue, che è peggio da solo l'altro. Quindi a un certo punto, chi deve farla staccare l'antenna, questa lingua a un certo punto, quando poi ce la deve buttare? Perché è tutto un blocco, il discorso è quello. Sa che l'ha smontata a me. Non lo so io, lui mi dice che non l'ha smontata. Lui mi dice, ciao, non la ringo, non l'ho detto con la smontata, il discorso è quello. Non so, se la smontata è meglio, se si girate tutto, però se non l'ha smontata la ringo lì a piattavola, e come smontata non l'ha fatto da uno, senza cosa, senza vasilina, senza un cazzo. Si fa tutto un blocco, si fa, hai capito? Con la vasilina. E lo sai che tu. Ma se lui parla che ce l'hai mentre i piedi, vuol dire che è smontata, scusami. Non lo sai neanche tu. Scusa, il discorso è quello. No, Ali, scusa, è smontata l'antenna, è smontata, me l'ha confermato lui. Non è installata, capito? Se le deve dispare, ciccia. Comunque, giusto per dire che si è affacciato lui e mi ha fatto questa proposta. Poi già l'antenna io già ce l'ho, non è un problema. Come riparo la boomerang, la piazza e gioco a pulso, ce l'è per i pulci. Se è smontata, se è lubrificata, se tutto va bene, se non è inutile che installi quell'antenna, lasciaci quello che c'è e se la biglia in culo. La Ringo lo sai il difetto che c'ha, lo sai più di me. Inutile perdere tempo. Ah, io ho visto sta piovendo adesso. dipende da voi, cosa volete fare, fate come volete. A un certo punto io vi sto dando un indizio, poi pazienza, se non lo volete accettare, a un certo punto sentite il soprattetto, vi ruoto e ci buttate la pena e la culo, come ho fatto io, tutto lì. Beh, Antone, cazzo, ma si sei esagerente stasera, cioè non è che questo, io allora io non ho preso manco un soldo perché ce l'avevamo già. Poi questa, quella più vecchia è meglio dell'altra, rosmetterà bene. Poi quella vecchia, se uno si mette di a culo a terra, la sistema bene, pure quella là va alla grande, non ti dà più problemi dopo, li metti così passanti, tutto quello che ci vuole, perché il problema è che ne cadono i pezzi e via, funziona bene lo stesso, cioè tutto lì è il discorso, la tari bene e poi fai tutto quello che devi fare e la tenda torna a funzionare bene, sennò che il problema è che ce l'hanno. Guarda, ti dico anche una cazzata, ti dico, se molti non lo sanno, anche quella spirale lì, se no è piazza dove è, ti patisci di capo, lascia perdere. E quindi allora voglio piazzare, poi come vuoi tu, a un certo punto piazzala e poi vediamo come esce, se esce bene va bene, se esce male dopo settimana mi piazzala con Antonio Bombolo, non con me. Antonio Bombolo lo sa che con le antenne sono fatte così, purtroppo, quindi a un certo punto cosa vuoi che dica io, piazzala e ti sembra meglio la bumera, forse mi sembra meglio la bumera che quella lì, la verità si dica. Secondo te quello che piace la bella via 27 euro e tranquillo. Uno stile come si deve e sei tranquillo, non sai se sopra il tetto, questo è poco ma sicuro. Ehi Ale, ma infatti ti ripeto che io sono a posto, devo solo portarla su appena smette di piovere perché l'ho aggiustata, la boomerang. Ti sto dicendo, si è offerto di darmi questa antenna, poi se non va bene ti la posso pure un po', capito? A lui non gli serve più, non ha... quindi il problema vero e proprio non esiste, perché non c'è nessun problema. Mi ha detto se mi interessava, gli ho detto boh, proviamola, però cioè, grazie a Dio antenne, cioè, adesso c'ho la veicolare, sono montata, sto modulando, c'ho la boomerang, la ripiazzo, il giocappuccio, quindi non... è tutto grasso che cola, non esiste. Se l'antenna poi non costa un cazzo montarla, piazzarla, tettarla, se ne vale la pena la si tiene, se no all'ufficio rovescio, compreso. Chissà, con le viti come c'ho io, non tocca se... è come la penso io. Antonio è successo la stessa cosa, la prima volta, quindi non lo so cosa vi posso dire io, nient'altro, il discorso è quello, se vuoi togliere quella lì e metterci l'altra, prova, se va bene va bene, se non va bene c'è il cassonetto vicino a casa tua, mi di fronte alla dove c'è la fermata del tram, quindi si va per tutto dentro. Canuta, cosa ci butti? Sì, ma infatti Ali, la cosa è proprio semplicissima, è molto semplice, non è complicata. Se ne vuole disfare, e chiaramente ha trovato, stava cercando una persona a cui darla, la proviamo, tanto provare non costa nulla, non è... visto che adesso ci ho montata l'antenna della macchina su, che devo tirare giù, una volta che tiro giù l'antenna della macchina, se c'ho l'antenna, se c'ho la ringo da provare, la proviamo, se no ci metto la boomerang che ci rabbia in culo. Abbiamo risolto i problemi, capito? Vai tranquillo, soprattutto se quella del modello che c'ho io. Esce una cannonata, esce. Modello vecchio, tanto. Il modello vecchio mio è poco bomba. Vai tranquillo. tranquillo, adesso tu mi senti forte, mi senti bene. Qua non sto neanche pompando, non sto, il coso è spento. Non sto neanche spingendo, capo, eppure funziona, te. Ma non ammare a te. A vai Davide. Anda bene, beh, stazionari e problemi ciò. Ma siete vicini, che c'è da quello? No, per dire, da te problemi c'ho, fischi senti, trotti senti, te. Adesso lo spengo perché non è necessario, te, tu da tutto. Cioè, cosa c'è? Ma stiamo scherzando, diamo. Sì, ti alza un pochettino di più, ma non è che sia chissà cosa. Dopo quando asciuga ti passa, appena appena. Metti il grasso, quello del coso, del... Quando è bella piazzata, deve essere perfetta, deve essere. Quando è bella pasta, invece metti il quello di vasellina. Se metti proprio il grasso dei cuscinetti, verrà che ti darà ancora meno fastidio. Adesso lo vedrà lui, cosa vuoi ti dire a un certo punto. Prima, taglio la testa, e poi vediamo se c'è ragione io o se c'è ragione tu. Non costa un cazzo. Ricordati sempre con la terra già installata, seconda mano. Quindi, a un certo punto, è un casino. Adesso vediamo. Quando lo installerà, se è vero come dici tu, andiamo. Io sono contento, se lui esce molto meglio di quella trena della macchina che sta usando adesso, non c'è problema, ma se esce più basso, sta tranquillo che meglio la parte della mobessa, questo è poco ma sicuro. Una cosa più basso, che se è piazzata alla perfezione, chissà pom pom bene, cosa stai dicendo? Lì? Se è piazzata proprio alla perfezione, che sarà da 1-1 ed è perfetta. Sì, cioè, con l'umidità qualche cosa te la fa, però non ti dati problemi, fidati, devi guardare il coso, se quello arrivetti, glieli cambi, glieli metti in coso, o gli metti il bullone passato, in modo che non ti dia più problemi, la devi fare proprio perfetta, la devi fare. Guarda che non ti dati problemi più. Dai raga, io sgancio, vi saluto, grazie comunque, dai. Vado a prepararmi qualcosa da mangiare. Dai, grazie mille, buona serata e vi tengo aggiornati, ok? E non far a piedi. Ciao ragazzi, buonanotte, ciao Luca, Alessio e Antonio, buonanotte, ciao ciao. Se hai bisogno dell'aiuto, lo sai. Io solamente consiglio, siccome conosco quel tipo di antenne, e Antonio lo sa, che è capitato anche a lui una volta con la prima, quindi con la seconda no, ma la prima sì. Quindi a un certo punto è per quello che ti ho avvisato, se è modello vecchio con la prima, eccetera, eccetera, hai quei problemi, muova subito. Dato che quello che c'è qui te lo fa in cuffia, a un certo punto. Tutto lì. Se dovessi avere bisogno, lo sai, basta farmelo sapere e non c'è problema, ok? Io la conosco molto bene, la conosco, so com'è. Andava bene, dai ragazzi, io vi lascio, dai, ci sentiamo alle prossime, ok? Buona serata, ciao ciao, grazie a tutti. Ciao prof, alla prossima. Ciao. A casa tua sei lui? Tutta la sera gioco a casa. Ah, sì, sì. Paghi su che stai a fondo scala. Cara gara. Io sto scendo con 4 watt, già andava bene. Ah, cosa di buona pupa. E siamo in questo locale. Infatti, a un certo punto sì. Ma comunque già va bene, dai. Io di questo ti dico la verità, Antone. Questo è il modello vecchio della Ringo che facevano prima. E io sono soddisfatto. Ma a me va bene, sta anche piovendo. Adesso ha 1,3 di stazionarie, sta anche piovendo. Andà bene, cosa ti posso dire? A 1,3 si può modulare, no, non è un problema. Io sto parlando di quella prima di quello che hai passato dopo, solo quello. Ah, l'altra vecchia, ma l'altra vecchia ha fatto così perché si è staccato un pezzo. Io quel rivetto lo biglio, ne lo tiro e ti faccio vedere che quella lì io ci riesco a tararla. La faccio perfetta, mi segno tutte le parti. E c'è una cannonata, dice. Lo so anch'io quello. Ho fatto anche quella modifica, il discorso è quello. Ho trovato un rivetto, si è messo una fitte dove c'è quella specie di spugnetta nera, discorso è quello, in modo che lo schiro non scenda giù, discorso è quello, è a posto, e la terra funziona benissimo, può prendere l'acqua che vuole, non succede nulla. E questa c'ha già le vitti. Ma ti sto dicendo la modifica che ho fatto io, scusa, quella, siccome quella antenna l'ho già avuta due volte, l'ho avuta con l'antenna. Quindi a un certo punto so come modificarla, capito? Il discorso è quello. So il problema che c'è, cioè dopo un po' che tu la compri, in pratica quella specie di spugna che c'è nera si ammorbidisce e in pratica lo stilo se ne scende, va in corto, dopodiché non funziona più. Invece a un certo punto bisogna fare una cosa del genere. Mettere una vite una volta calata, ecco, del genere, in modo che la spugna tattenga la vite lì, li metti in silicone sopra, e quello che o sulla vaselina, quello che ti piace è l'antenna perfetta. E dura 10 anni. Sì, sì. Ma è così che bisogna farle. Questa sta leva che figlia indica. Comunque questa qui mi ha dato subito soddisfazione, infatti ha detto mi nomi ciamba, mi la giubuccia in occhi, l'ho puntata, l'ho tarata, l'ho cercata, gli ho trovato il punto giusto, gli ho trovato. Però con il dubbio ho girato anche la molla per vedere un po', non la molla, quella sì che c'è un nome giusto, quella spirale là. L'ho messa dall'incontrario, l'ho messo. Ho provato, ho tarato, Melomì, 1-1, vai su. Ho piantata su, una cannonata. Meglio così, sono contento, ma visto veramente sono contento. Luca! Ehi, aspetta, guarda, non c'è la notizia. Il PMR ce l'hai, sì, è acceso. Il PMR? Lascio l'accento. Quello che mi hanno regalato è quello cinese, 50 euro da mettere in macchina, che fa voi per provare se esce bene o se esce male. Prova. Sento già. Va bene Ale, già va bene, mi senti tu? Un po' frustrato arrivo, ti sento. Parla. Chi fa? Aspetta che sta colando, va. Guarda, questo è l'altro prof. Kappa. Ehi, sei fortunato tu che dove sei adesso arrivi bene al monte. Capito? Arrivi bene, la posizione c'è da parte mia abbastanza buona. Kappa. No, già andava già, cavolo. No, ma funzionano bene tutti e due. Chi dopo l'antenna più corta? Questa qua è più lunga. Però cavolo, pompa. C'è un cavolo di antenna, piccolina. Cioè, pompa, un bel. Buono, è buono. Oi. Tra poco farò io se mi porto la doccia. Kappa. E pompetta. Sono qua, dimmi tutto. Sei rientrato. Hai visto che funziona, Ale? Non ho capito, dimmi, non ho capito. Ho detto, hai visto che funziona? Ho visto. Cavolo, non mi domando, ma ti fate in città cosa? Con un antennino così piccolo. Cosa vuoi che ti dica io? A volte le parole si ingannano, diceva quello. Sì, ma cavolo, me ne avevano parlato bene, ma cavolo, non credo che ci sia così bene. Comunque io per la lingua sono sempre di assaire. A un certo punto non piace, non mi piace per niente, lo sai, anche tu. Quindi, vabbè, se uno vuole regalare una lampada, qualcosa del genere, cosa faccio? Ti dico, non prenderla perché fa schifo. fatto va bene. Come fatti? Ho capito. Sì, così che ho fatto bene, fate gli accorgimenti giusti, ti dura una vita, le antenne. Ah, se vediamo un po'. C'è un CP che ha l'antenna, c'ha gli apparati, il lineare, cosa del genere. Adesso vediamo un po'. Non so cosa voglio fare. C'è la mano, faccia. Qui da certo punto, adesso vediamo un po'. Se ho soldi, rispetto a sé, non se la piglia in culo, a un certo punto. E non voglio offendere, sono dei baracchini, ma ce la faccio. Io ho preso parecchi, cosa? Penso che 5-6 persone di più non saranno. Vabbè, e cosa vuoi fare? Chissà un'altra cosa. Ma cosa è smontata questa manto qua? No, non l'ho smontata, non l'ho smontata, ce l'ha lui in casa sua. E ancora è piazzata? Esatto, non è ancora piazzata, esatto, bravo. Mamma mia! Ma se vediamo, quando ci vediamo, cosa mi dice? Se vuole entrare la baracchina, bene, se non vuole entrare la baracchina, qua, e qua. A un certo punto, se ci sono delle persone interessate, se vede tutto va dal culo, ecco. E se parli con tanti. Sotto al tetto, ce l'ha a casa, ce l'ha. E' alla Mantova, secondo quanto la sta vendendo, cavolo, l'avrei presa subito. Passo di nocchiera, una mattina. E lo sai, che tu costa? Appunto, 200 euro. A un certo punto, adesso vediamo domani, vediamo cosa mi dice. Fai con altri due biglietti a 100, pure se ti la stanno dando così, la stanno dando. Cazzo, chi mi aveva detto 30 euro, cazzo, gliela avrei dati subito. Sei fresco allora. Fresco? Ah, lo sai quanto ce la fate di pagare? Quello che ho pagato a 120 euro mi ha dato qua lì. Quindi, figurati tu. Ehi, quando era ancora in produzione, una volta la pigli in culo. Soprattutto se la uno gliela avrei dati subito, perché è la migliore. È la uno. Cos'è la uno? È la uno, sì. Mamma mia, quanto ne vuole? Non lo so, devo chiamarlo. Poi fare le cose come stanno. Devo chiamare. La 1 è una cannonata, eh. Lo so, se ti va bene è così, se no pazienza, se la piglia in culo, a un certo punto. Graffa, la 1 lo sai pure tu, lo sai che è la migliore tra le tre, perché è molto selettiva pure. Lo so, che preoccupante è quella. Posto della turbo, cioè, che hai tu, ce l'avrei trovata, la 1 me l'avrei piazzata, sì. È tutto un altro discorso. Non lo so. La parola che la turbo, dove è che è una cosa diversa, A quanto me ne hanno detto tutti. Sì, già mettato, stai. Di travagliende, mi sono stracco. Ti sento sbadigliando, cazzo, come dire, tu con l'antenna, prima ero in mattina alle 7, perché poi devo cucinare le bombole. La mattina vado di tu a cucinare bombole. Bubu. Ma effetta. Ma per dirti, già lo sai. Gabba, ma che cazzo c'è? Oggi si è travagliato un bene. È logico che sono stanco. Beh, certo che già lo so. Ci stiamo tutti i giorni, quindi figurati tu. Allora, già lo sai. Oggi mi hanno ingrippato male. Ma che stanno la pigliata in dove la pigliata fa Eva, mamma mia, lascia piovere che è meglio. Già è bada a me, ma caspita, meglio così almeno lo porti la bombola. Non ti piacerebbe speccare la bombola prima del mese mariano? Come si dice, la bombola dura un mese, dice, ma quello se finisce prima meglio. Così è. Allora visto hai. Vabbè. Che Dio, adesso qualcosa la stiamo facendo. Oh Giulia. Già va bene. Prima del gas naturalmente. Approfittano adesso, dopo che c'è il gas fa 5-6 anni. Sempre se tutto va bene, quindi le bombole non ci saranno più. A chi l'ha detto questa scemenza? Perché il continente non le vendono le bombole. Le bombole le vendono sempre, ma magari non in quantità quanto è qua. Capito? E qua che è un business, verranno tutti le bombole pure. Già lo so. Fa il business grosso, bisogna bacchettare e non caro corso. Che è bello quello comunque. Oggi è carichino, dire. Lo sto caricando io. Con un furgone si pigliano le bombole. Beh, quello sì. Oh cazzo, ci sei? E adesso vado a fare la puntura. Esagerato, dai. Non gli ha dato via io che sa fare, quando c'è vento, il soccorso di Linkham deve essere. Ma, per carità, bisogna adeguarsi, lo sai, a un certo punto. Quindi, figurati tu. Lo so. A che dia fa sopra, gatto, per il culo, capito bene? Ripetitori telefonici mi hanno detto che disturbano un bel. Sì, abbastanza. In 27 sì. Ti chiamavano la verità. Io lo sai chi c'ho da qua. Vedo quelli del grattacielo. Esagerato. Non esistono grattacielo qui. Grattacielo è una cosa, eccetera. Non esiste. Beh, dal tetto li vedo, ce li ho di fronte quelli cazzo di cose. Va, lo sto dicendo io. Senti? Sì, che lo sento. Quello lo sai, sì. Già lo so. Ma non lo sai la frequenza? 460-125. C'ho quella dei tram pure. Ho capito. Esci che andiamo in posto, va. Ma hanno apertura a ponte, no? Dovrebbe essere chiuso la ponte, quello non lo so. Comunque sia. 460-125. 60-125. E io? Allora, vediamo quella per essere giusto. Ma dove gli piace? Allora, 4-0-6-1-2-5, così è? 4-60-125. 125, no, 406, 460. Sì, è 460, 1, 2, 5, così è. Esatto, sì, bravo. Questo rumore strano, però. Lumi, Lumi. No, mamma, così. Stai parlando nella frequenza loro. Hai visto che non sono... sono sano. È vacillato mentre tu dicevi una cosa. Si sentono ogni tanto. Sì, ogni tanto si sentono, la verità. Senti. Mi sentite? Beh sì. Sì, vabbè. L'hai visto? Che sono pronto. Entro. Eh? Bello bello. Ehi, ya. Quindi, beh, ti ho detto che sono pazzo, quindi prima di tu. Questa è la frequenza 460-125. Che forse sono in digitale. Non lo so quello, la verità non lo so, comunque sia. Quella di quelli. Di quelli dei rossi mi interessava. Comunque tu già mi hai sentito, sì. Sì che ti ho sentito. Ah, meno male. È un. E quella è quella del 118, così. Esatto, sono una persona di parola. 118 questo è. Devo girare il fuoco, ce li hai? No, quello non ce li ho. Ah, scappa. Va bene. Va bene per ascoltarmi. Guarda, adesso io faccio ciucu ciucu ciucu, guarda, senti. Ciucu ciucu ciucu ciucu. Lo senti un po', sì? Ma cazzo mai, ciucu ciucu. Lui? Senti. C'è, non ti preoccupare. Lo so. Hai visto, Questo è 118.000. Chiama. Non chiama. Non c'è niente da fare, cazzo. Per carità. Comunque sia, è a posto. Ah cavolo, ma cosa c'hanno? Antennine un po' piccole c'hanno per uscire così forte. Non l'ho vista l'antennina, ma sono minoretti se ho proprio. Un secondo, 2 minuti. Dai. Ehi, ci dà che va a farmi la doccia, ci sentiamo.